segnano cent'anni da prendere e da tenere, cent'anni insieme. Ridevi da dietro una maschera e poi stelle, pioggia di carta sul viso, su un'isola immersa nel sale del sud, quanto sole che abbiamo diviso, cent'anni insieme. Cent'anni da prendere e da tenere, che ricordi poi finiscono tutti chiusi in una scatola, ma ancora davanti a noi cent'anni insieme. E poi nel viale grande, sempre insieme fino al futuro, e poi nel viale grande dopo quel muro, insieme sempre insieme.